fate c'è una roba che va in tazza, ecco perché si spegne. Ai du. Scusa, che cosa strana attacca dalla ventola? Oh, io che spaccherità, pucci, pucci. Ci vuole pazienza, prima puliscilo e poi rifai tutto. Ma ci arriva al bello. Sei riuscito? Poi tu ci arriva al bello. In che senso? Aprilo dietro per la ventola. Cappa, ora che ne c'è da rancorino. Tu pensi che lo devo aprire tutto, ma te ne rendi conto, lo devo aprire tutto. Già lo so già. Ma io dico, come ti si butti in un computer così? Non lo farò. Niente dozzola, Ollo. Niente dozzola. Stavo dicendo. Tino, benissimo. Ero un po' senza accendere, tanto ciao. Buonasera. Buonasera. Perfetto, c'è 9:20 Radio 5. Andare. Un po' abbandonata questa torcioncina perché ho altre cose da fare, quindi oggi l'ho accesa e vediamo un po' se c'è qualcuno. Ho sentito qualche tocco pure poco fa, ma non c'è da poco fa accesa? Sì, forse un'oretta fa. Qualcosa del genere. Sì, perché poi sono andato a farmi la doccia, quindi ho mollato, sì. Cappa. Per far scaldare un pochino questo, dai. Lasciamo il letargo. No, io invece per il tiravita lo voglio utilizzare ogni tanto perché sono qui si addormenta. No, già lo utilizzo già, quando è già a Puglia. Ma questi giorni non sto tenendo il letargo. Sto tenendo e a qualche giorno già l'accendo. Bene, vabbè, non c'è nessuno. Luca c'era. Chi Luca? Ma è Cuneo. Stavo pulendo il computer che era benghinoso. Sempre da parato anche lui. Ciao pa. Allora, di chi posso computer? Ciao Luca. Stavo fanno sulla sopravvivenza. Andare. Va bene, dai. Niente, sono entrato a salutarvi, dai, che anch'io mi organizzo a papai, che è ora, sono fuori la mattina. Alle 5:30 mi viene male alzarmi. Cappa, non c'è problema. Bye bye. Ah, tu, visto che ci sei. Non ho pensato a telefonarti. Dimmi una cosa, tu hai propano la 10? Piace io. Quanto viene a costare quella la 10? Se te la prendi lì costa 20, se te la prendi da noi. Ha fatto prima, capito. Vabbè, la prossima, quando la consumo, tanto l'ho messa nel camper, quindi tra come si chiama, fornelli e frigo già si consuma. No, c'è io, quando arriva la fiamma c'è io sempre. C'è io. Va bene, dai, buona sapersi. Quella da 15 invece? 30 euro ho presa. Ma devo venire io, com'è? Come funziona? Se vuoi vieni tu, se no la portiamo noi ma costa un po' di più. Se ne prendo un po', devo chiederlo a lui cosa ti può fare. un po' nel senso, roba di casa, roba, cioè a me mi servivano due da 15, cioè due da 10 per campo, capito? Cappa, bisogna parlare con lui, io non lo so, tanto tipo di avva, vabbè. E io la buraca, nel caso picchiamo, va bene, dai, che vado a mangiare un morso anche io, ciao, divertitela, ciao Luca. Ciao, ciao, ce ne sentiamo. Ciao Tino, tanto l'ha già bucato lo zappo, per carità. Ha soltanto DJ? Assoluto, ma ho picchiato sì, buh. Che la vuoi fare, sto ciodando, vera. Sta grossa, vera. Ma c'ho un tramezzino dentro, salve Fontina. Ah vai. Sì, no. Che schifo. Ecco un poco con la maionese come te nel circuito. Cazzo assurdo, mamma mia. Niente binghinosa. Sai cosa, che molte volte anche digliere certe cose, ti rompo le palle. Magari ci offendere. Guardi che non ve lo dico. Ma quello di davvero, quello di davvero che è pinghinoso. Si è detto domani. Mamma mia. Glielo dici, ci ho messo due ore a pulire tutto, ci ho messo, glielo dici. Ma carità, non ho parole, guarda. Ma è entrato così a casa Giulia? Penso al computer, no, non ci tengo. Ah, ma che io ti offro un piatto di minestra. Ma cosa, con un biuvaro? Che cosa mi sarà? Non facevo più, varo. Ah sì, non si può in Corea. Allora dimmi tu, vuoi smontarlo tutto? Non è come il mio, che levo il tappo. Senza so. Cappa, basta lo dire a me, che se un travaglio costa di più, anche di un dubbia. Tre boccette di coso, ma pure tutto. Ma la faccio pubblici. E la tua semplicità va con fallo. Ma la 30 lire. Oh, qua non si doveva fare minimo 30-40 euro. Con trovaglio da 60-70 euro. Quello è il prezzo giusto. Mi sa che prima di fare un travaglio bisogna vedere anche queste cose. Ma non, portami il computer che lo devo vedere prima. E altro ormai è fatta. Che ha fatto? Progresso mio, tutto a rega il rompimento di scatole. E rubo di fossi. Mi sa che bisogna fare la preselezione. Sì, ma poi che me ne ha rigato uno, a Sant'Antonio, l'ho già messo in sotto e si spegneva praticamente. C'era la ricottina, Ma di chi fu? Scusi per essere esagerati, sono danni che poi ti rompono le palle, perché li fai il prezzo e li fai e magari attacciati tutti i campi di cose e poi ci devi stare un casino qua. Poi per il tempo che ci hai perso non so più 30 euro, so a manco mandare lì giù sono vivo una manco 50 euro. Cosa vuoi fare? Ormai sto facendo di metterci i personaggi a farci pagare. Cosa vuoi che ho pagato? È inutile. Capa, ma non veneno di più lui. Fa cosa per troppa gente e fate troppe gazzate. Altro che vuoi fare? È già messo in balle. Cosa vuoi fare? Troppo. Mi sta mettendo il coronavirus di fuggicando così. Adesso è attacco la ventola. Via, pulisci tutto. Bello, io piglio e mi sento che faccio un sonno che non ti dico, che ieri ho anche bucato e oggi l'ho riparato, manco male in cazzo che mi ha giubilato la bicicletta. Allora mi sono goduto da latidozza a piedi. Vabbè, succede a tu. Tu pensa che allora sabato siamo andati al mare con Mario, domenica se non mi ricordo, forse domenica, boh, vabbè, pensavo, siamo saliti, non sono saliti, io non salgo con la media di 100-110 lì, no? Siccome da poco ha cambiato il radiatore, arriviamo a Sassari, proprio vicino a casa sua, e vediamo un po' di fumo che usciva dal cofano, no? Un po' di vapore. Io non l'avevo mai vista una cosa del genere, che se la macchina scalda, ma non è sul vapore. Questo controllo via, siccome siamo arrivati per culo a Sassari, proprio per culo, la vaschetta dell'acqua vuota. E pensare che, ripeto, come ti ho detto prima, il meccanico ha cambiato il radiatore e ha fatto tutto il ciclo dell'acqua, cioè ha cambiato tutto il liquido, no? Cosa ho fatto? Io, vabbè, l'ho chiamato, passa così così, è strano, dice, com'è strano? Purtroppo l'ha perso. Vabbè, mi ha raggiunto metà della metà, forse quel bidone da 5 litri, ho messo quello lì, siamo in Dubruissa. Poi ha portato 2 litri d'acqua e quasi quasi siamo avuto anche quei 2 litri d'acqua. Vabbè, la macchina era a posto comunque sia, ma io dico, se tu ne hai fatto un travaglio, no? È bravo questo qua, meccanico, niente da dire, però dico, come mai si è mangiato quest'acqua? L'acqua non la sta perdendo? Sarà qualche manicotto, sarà. Devi controllare il manicotto, semmai vi dirà che manicotto mi sono facciato. Poi quei tipi di motori avete culo, perché ha il gasolio che non scalda un cazzo, non scalda niente. Se no, quella macchina, se era stata a benzina, era stata già crepata. La macchina a benzina, non è a gasolio. A benzina, e allora avete avuto fortuna, un bel. Io dico, tutta quell'acqua, cioè, se lui ha fatto tutto il coso, no, è onesto, niente da dire, mica sto dicendo che non è onesto. Però dico, gli ha fatto tutto il lavoro per cambiargli l'acqua, cioè il liquido, tutto quanto. Quel liquido che fine ha fatto? Ci sia qualche manicotto rotto, o che sta perdendo. Magari come ha cambiato il coso, può essere qualche manicotto. O è mezzo mullato da qualche parte, devi mandare la impressione e guardare se perde sotto da qualche parte, tanto di nabizzi subito me. Cos'è, cosa mi ha detto? Che dicevate fa da Mari? Ah, va a rompere il cazzo, l'aveva detto. Chi è che ti ha chiesto il break? Giampiero qua sta arrivando, Santiago 3, la radio non è male. Da che zona stai modulando? Ah, capa, sei al Alghero, sì. Sono in compagnia di Luca. Lo senti a Giampiero di Alghero, Luca? Sì, lo sento, basso, basso. Giampiero, mi ascolti? Capa, capa, Giampiero. Tu che antennano, antenna grande? Mi ascolta, mi ha ascoltato? Non lo so, Giampiero, ascolti a Luca. Io ti ascolto, vabbè, segnali non ne hai da me, eh. Non ne hai segnale, però la radio è uno. Non so come mi ascolti tu ad Alghero, non l'ho copiato adesso anche tu. Ti ha detto 4 e 5, ti ha detto. Capa, ti stavo dicendo, Giampiero, tu come mi ascolti lì ad Alghero, tu? Santiago 6? Ah, ok, no, non è male comunque. Beh, già va bene. Capa, buona, vero? Diciamo che va bene, va. Ti stavo dicendo, ma tu con che antenna stai uscendo, Giampiero? Capa, già, vai bene. Non posso levare un po' più di potenza? Brecco. Capa, avanti, break. Sì, ciao, buonasera. No, sto sentendo a te, Antonio, chi c'è? Poi c'è un altro amico, come si chiama? Avanti, sono appena entrato, sono arrivato adesso. Capa, Giampiero di Alghero, Avanti per Roberto, Giampiero. Mirko, volevo dire. Sì, ciao Mirko, non so se mi ascolti, io ti ascolto abbastanza bene, sei quasi 9 di segnale, quel picchio arrivi a 9. La radio non ti do 5, però 4 te la posso dare. Dammi un controllo anche a me se mi ascolti. Come mai sei così basso? Alghero qua normalmente arrivano un pochettino più forti. Che radio, che antenna stai utilizzando? Ok, dai, ben sentito per la prima, vai a tu. Kappa, dai. Diciamo che è la seconda volta che parlo con Alghero, perché io ho parlato con un'altra persona un'altra volta, adesso è la seconda volta, capito? Tanto considerando dove sei, se riesci a parlare e a farti ascoltare sei andato alla grande, dove di prima dimentica, te ne era praticamente impossibile, già avevo difficoltà io a tirarti fuori, sono probabilmente in una zona di Alghero, l'amico Mirko non è eccellente verso di me, perché Alghero arrivano qua 9-10 quasi tutti, tu sei quasi 9, probabilmente c'è un'antenna che non è perfettamente orientata verso la mia zona, cos'è, una verticale o un dipolo orizzontale? Ma una domanda senza dire esattamente la via, in che zona di Alghero sei tu? Zona del porto o fuori Pietraia o cosa, l'altro su Calamonte? Fiorettella, quelle zone lì sei? Ah, ho capito, no, no, perché a Sassegada in quelle zone lì c'è Angelino di Alghero e arriva abbastanza forte qua. Ehi, ok, vai Antu. Parla molto senza sentirlo ad Angelino. Non ho capito, cosa hai detto Antu? Che non l'ho più sentito Angelino. E anche io sono da molto, da quest'estate, doveva partorire la moglie verso agosto, dovevo sempre passare a trovarlo, mi ha detto vieni, vieni, ci siamo mandati gli auguri, quando è? Per Natale, per Pasqua, e poi boh, non ci siamo più sentiti. Molte volte mi propongo, quando sono di zona, di passare, poi, e basta, se hanno messo l'antenna in una posizione migliore, ho visto che eravamo molto forte rispetto a prima. Ah, ma non modula mai, quando ci sono qua no, non lo sento mai. La compagnia anche di Luca sono. Ah, c'è anche Luca, scusa Luca, avanti, non t'avevo sentito. Sì, ciao, non mi sono indaffarato qua, mi ho dato quasi finito, dai. Ma hai fatto qualcosa, Luca? Non ho fatto niente, Robert, nulla, sempre le solite cose qua. Ah, lui, mi sembrava, vabbè dai, già il tuo segnale, c'è a casa tua, adesso stavo pensando, ma 9 più 30 quasi, sì, comunque, già il tuo segnale, dai. Va bene. Dico di altro lo sento basso io, uno di segnale, ma arriva proprio qua, e vabbè io la zona di Alghero non sono buono, dai. E uno non ne ho mai avuto segnale uno, perché quel REM qua parte da 6-7 minimo, lui è 9, se fosse stato meno di 7 non l'avrei mai potuto sentire, perché qua nella zona mia quel REM è minimo 6-7, raramente scende sotto il 7, comunque lui arriva quasi 9 qua, la radio non è buona, forte, ma non è 5. Vabbè io non lo sento, non lo sentito, io quel REM non ne ho. Adesso come sa, finisce il caso, una bella stagione, ho piazzato una bella antenna, la oriento in modo che in direttiva vado in una zona e cerco di migliorare dove c'ho poco copertura. E vabbè tu già imbatti bene da lì. Ma voglio migliorare in certe zone per vedere cosa faccio, dai. Ok, vai Antu. Capa, se appunti da me ti accendo il lineare, poi vediamo. Beh, già ce ne sono andati, chi seguirà i video a me, che a me mi arrivavano, cacchio, mi sfasciavano lo smitter, cacchio. Ne avevi certi segnaloni qua, allucinati, dovevo attenuare, se no, quando si andava in FM a me mi spaccava tutto, non riuscivo a sentire le cellule, talmente era forte. L'unico vicino che hai è Antonello. E Antonello arriva a 9.50 normale, se poi attacca qualcosa non ne va a vedere, guai. Capa. Bisogna. Ma mai dire mai, potrei venirci anche io nelle tue zone. Era buono di lontano però, non mi mettere troppo vicino, cacchio, se no non parlo con nessuno. Ok, vediamo Mirko ancora, ci sei ancora Mirko? Ma che radio stai utilizzando Mirko? Guarda, la radio è bellissima, bella, chiara, forte. Questa cosa ti porti questo fruscio, ha preso questo QRM, peccato, se no ti avrei dato 5 di radio, perché è bella, chiara e pulita. Ma ti stai aiutando con qualcosa o sei pulito? Ma tu sei nuovo, scusate il monopolio, sei nuovo qua in frequenza o c'eri già la prima? Perché a te non ti ho mai sentito, da ieri ho sentito un sacco di gente, ma a te non ti ho mai sentito. Ehi, vai a tu. La verità, non l'ho mai sentito nemmeno io. Lui. Ho sentito tanti, anche se prima non potevo riceverli, ma lui non l'ha mai sentito, la verità. Prima c'era un periodo che di Alghero c'era una marea, c'era Carlo, Angelino che poi dice, Angelino, Cavallino che poi purtroppo mi ha detto che è morto, poi l'altro, Luca, come si chiamava che ci faceva pisciare dalle risate, l'altro di Alghero, ricordami? Ah, Pinangelo. Pinangelo era un piscio, che era troppo dopo. Quando c'era lui in frequenza, che poi non era futtia nulla, quello parlava, c'ho 4,40, sto tirando 50 va, 80 va, mi adesso attacco, proprio un tipo, mi piaceva perché non si metteva problemi di niente, era troppo simpatico. Ma si trova ancora o è morto Pinangelo, Luca? Mi sembra che sia morto, vero? Sì, si è deceduto. Mi dispiace, poveraccio, perché era troppo. Poi c'era Carlo, ve l'ho risentito dopo tanti anni l'altro giorno, tu ricordi lo stesso Carlo, Luca? Ah, è qua. era una roba di anni, mi chiamavano al fondo, dicevo, ma chi è questo qua? E beh, Robè, ciao, quanto te. Non l'avevo neanche riconosciuto perché lui arrivava molto, il radioamatore parla, arrivava un bel forte. Dice, no, sono con un'antenna, non so che antenna c'aveva. Poi piano piano, il giorno dopo l'ho risentito e arrivava come arrivava sempre, 9 più 10. E era un bel che non lo sentivo. Tu te lo ricordi tanto a Carlo? Io non li sentivo, no, all'epoca. Capivo cosa stavano dicendo, cioè, tramite gli altri, ma non li sentivano. Chi non ho più sentito invece, non so se avete più sentito voi, Antonello Barracuda, più sentito l'avete? Antonello, Dio sì. Diciamo che c'è una, mi hanno detto a me che c'è una situazione un po' difficile. Quando la Barracuda io ci parlavo. Ma non era di Ussi, perché di Ussi? Mi pare di sì. Sì, sì, di Ussi, Antonello Barracuda. Ah, ero convinto che era di Ussi, figurati. No, Ussi, Ussi. Ah, in gamba lo stesso Antonello, una brava persona, cioè è sempre piacevole parlare con lui, un po' di gente si è persa di quella gente. Ho sentito, mi sento ogni tanto con Giovanni, ricordate Gianni Dittiri? Raga, io mi ricordo uno Dittiri, mi ricordo. È tecnico, è molto bravo nel suo lavoro, veramente bravo. Come si chiamava di nome attivo? Non me lo ricordo neanche più, ma lo so, Luca, te lo ricordo? Giova, se lo senti, salutamelo. Adesso mi ricordo, salutalo, se lo senti. Quando è che ci siamo sentiti? Oggi mercoledì, lunedì mi ha chiamato, perché poi è venuto 2 settimane fa in officina per un amico, me l'ha raccomandato, mi raccomando, trattalo bene, che poi non è andato in porto niente, perché poi si è risolto il problema, e mi ha detto, no, non ti preoccupare. No, molto preparato, a me mi ha dato una mano su degli impianti, ti posso dire, molto, molto, tanto di cappello, veramente preparato. Ok, poi chi c'era degli altri di collezione lì? Di Ussi chi c'era? Ce n'era un altro, sbaglio? Io mi ricordo che ti dia sempre, a si intendere. Poi c'era, vabbè, quelli di Usilo, ce n'era un paio di Usilo, poi ce n'erano Assenno, Risorso, Alghero ce n'erano tanti, altri ricordi se no, Montenurra, Luca, come si chiamava quello Montenurra? Ah, Luca. Luca Montenurra, il padre come era, Angeli, come ti diciamo che si chiamava? Il padre. C'era il padre del figlio, che c'era il trattore. Ah, Bombore. Salvatore, Salvatore Montenurra. Ah, no, Salvatore Birillo. Erano in gamba anche quelli, non li ho più sentiti. Ci sono passato, quando sono passato la gente là, passo sempre davanti a casa loro, c'è ancora l'antenna, c'hanno l'agriturismo di lì. E poi chi era l'altro? Venera un altro. Ti ricordi quello col peschereccio che andava sempre a capocaccia, lo sentivamo, che gli abbiamo fatto compagnia un sacco di volte, adesso non me lo ricordo però come si chiama. Buono, ma lo metto già domani. Io ci manco, sono rientrato adesso un po' più assiduamente, ma sono stato 2 o 3 anni che proprio non c'entravo quasi mai, accendevo, ogni tanto salutavo, però all'inizio c'avevo un bel di passione, e c'era un bel di gente, parliamo 2004-2005, Luca mi ha battezzato, tanto non so se te l'avevo detto. Break. Sì che ti sento Natalino, sì che ti sento, e non so che c'è Natalino. Capo, con Antonio Romero, senti a Natalino. Sento che sta parlando, Santiago 7, ha detto qua c'è il QRM sempre 7. Sta parlando, però non capisco quello che sta dicendo. Ma non sei col portatile. Ma se prova a cambiare il radio, se con l'altra va meglio. Ha detto che è con l'antennino interno. E adesso mi senti, vabbè. Ho detto se mi senti adesso. Sì, ti sentivo anche prima, però non riuscivo a capire quello che dicevi, eri su 7 come segnale, però Natali, ti ripeto, io ho il QRM altissimo qua, non so come loro, 2, 3, 1, sentono segnali 1, io mai sentiti così bassi, deve essere almeno sopra il 7 per sentire qua. Ho capito, no, è perché ero con l'antennino sul frigorifero, capito, interno, quello della macchina. E stavo ricevendo con quello piccolino, mi. Ma tu mi senti da me? Eia! Ma che strano, cazzo. Vabbè, tu c'hai più QRM, poi quello lì non è, c'è, non c'ha vatti, capito? Aspetta, facciamo rientrare l'amico di Alghero. Avanti Mirko, se ci sei ancora. Cazzo, il ricevitore si è bloccato. Aspetta che ti hanno parlato sopra, Mirko. Cos'hai detto? Hai detto lo sentivi a Natalina? Adesso lo senti, prima è impossibile. Non lo sentivo neanche io qua a Sassa. Hai sentito Natalina? No, negativo, c'ho troppo QRM. Se fuori Sassari mi viene impossibile anche a me. E ad Alghero, ha detto che ti sente basso basso, però ti tira fuori, Natali. Lui ad Alghero, mi ha detto all'ingresso di Alghero, ci sono laterizi con la zona lì. E quando cambierò l'antenna magari la metterò un po' più in alto e vediamo un po', perché io già ci arrivavo da quelle parti lì. Arrivo basso anche a Porto Torres. Ma a me mi toglievi bene fuori, Natali, con quell'antenna, riuscivo ad ascoltarmi bene o mezzo a correre? Ah, oggi ti ascoltavo bene. Va bene, allora. Ok, vai Antonio. Però io non ho difficoltà ad ascoltare, amico di Alghero. Non lo sento forte, ma lo sento a te, lo sento. Non ho problemi. Ecco, che tanto, mi considerando dove sei tu, che sei mezzo chiuso, arriva di Alghero, è ottima la situazione. Quando eri a Limaretta, non è manco a fare i danni. Già lo so, purtroppo. Ma abbiamo rotto il cubo, non ti vuoi andare. Ehi, avanti di nuovo, Mico, a te. Ehi, ok, dai, buona cena, buon tutto, allora. Mico, ci risentiamo alle prossime. Vai, Antu. Capa, salutone, ci risentiamo alle prossime. Ok. Vai, Lu. Ciao, Mico, salutone, alla prossima. Dai, ho quasi finito, l'ho trovato un paio di inviti, dai. L'ho provato ad accendere apposta, ok, un attimo. Gabba gabba, stavano e chiudemmo d'ora, te, che era attendente a Gigi, era attendente, a buon passaggio, a vedere come ti arrivi alla riera. Lasciamo stare nel Tugurio, va, cioè non Tugurio, nel letargo volevo dire. Ma adesso sei liscio, Antu? Sì, liscio, liscio. E quanto sono, vuol dire liscio per te? Come sei tu, messo guio. Ma poco fa avevo un'altra radio, hai cambiato la radio? Sempre lei, non ne ho attaccato nulla io del radio. No, la gioventù, ero provando a far caso il Gigino che poi cambiavo il PL, avrei come arrivava anche io. Però adesso se n'è andato e l'ho tornato a rispegnere. Ah, non ho capito, allora, no, pensavo che fossi con un'altra radio, infatti ho detto cosa vuol dire a te liscio, infatti ho detto, aspetta, se devi andare a bomba, no? Lo sai che hanno attacco visto, è per potente. Infatti per adesso non mi sembrava tanto, cacchio, arrivi così forte liscio, che cacchio. Vorremmo una prova a bomba, vorremmo fare. Ma lui c'aveva problemi di antenna, non è possibile che arrivasse 9, quasi 9 qua da Alghero, arrivano tutti 9-10, perché io sono completamente a quella zona migliore per me è Alghero, dove sono servito. Mari, se mi dici zona tipo la Terzardo, tutte quelle zone lì, sono chiuso, però Alghero ce l'ho di fronte, vedo tutto io, dovrebbe arrivare, lui dice che arriva a vuoto, strano, probabilmente quell'antenna non irradia e non riceve bene. Pensa tu che lui era con quell'antenna, non ricevevo io, se è stato con l'antenna come te si deve. Arrivava forte qua. Infatti già lo ricevevi tu, perché sei un po' nascosto rispetto a me. Io sono tutto aperto, non ho ostacoli verso Alghero. E sanno lì probabilmente, vabbè, avete un'antenna autocostruita con un dipolo a mezz'onda, per cui che cacchio puoi pretendere pure troppo che sta arrivando. Stavo facendo liscio, mi ha detto, con un 3009, non aveva neanche potenza, però la radio era bella, pulita e chiara, c'era il QRM che si portava questo fruscio, se no gli avrei dato 5 di radio. Però io lo sentivo lo stesso. E avanti Natale, Natale, Pasqua e Capodanno. Si è perso. Luca va, sta combinando, va sempre saldando e costruendo. No, sta pulendo un computer che ha tutto quanto binchinoso. Oggi Luca, proprio del computer, mio nipote, che giove, sono fissato con questi giochi, cose strane, è arrivata questa scheda a video, non so quanto cacchio possa costare perché era allucinante, con tre ventole, una bestia di cosa, sbagliata, una cosa spaziale, cacchio, da quanto era grande, ma è vista una cosa tutta dissipatori, dorati, cose enormi, non so cosa cacchio possa fare con la scheda. Chi è che vuole entrare? Avanti! Chi vuole entrare? Ho sentito uno basso basso, chissà care. Sette giorni, sette sto parlando, ma ti ripeto, c'ho QRM a 6 e questi sono segnali quasi 7, per cui non si capisce niente. Ah, gente da fuori. Sa la propagazione, basta. Tu pensa che io QRM ce l'ho a Santiago 2, cosa tutto mi arriva? Cioè ti segna 2 tu, senza portante c'hai 2 di segnali. 2 anche meno di 2. Di cosa mi segna? Se vuoi ti mando la foto te lo posso vedere. No, già ci credo, no, adesso in questo momento io ho 6 di QRM ed è buono, mi certe volte arrivo anche a 8. Più di 6, 6 è qualcosa. Io molto meno di te. Per quello qua i segnali devono arrivare minimo 7, cioè ho un buon segnale, ricevo bei segnali, però se sono segnali 5 e 6 sono morti, non esistono qua, perché questa zona è tutto disturbi, quindi sono pochi reti cellulari e malassorti, e mi dispiace perché in certe zone potrei, a me mi ascoltano, io però non riesco a sentirli molte volte, tipo ieri qualche volta così, devo andare in banda laterale o in FM che c'è meno aburotto, in AM con le zone di Ozzili arrivano, si vede che arrivano 8 qua a me, e 7-8 arriva il segnale, però cacchio, e quando c'è QRM io non riesco a tirarli bene, è tutto disturbato, infatti voglio migliorare quella zona, puntare un'antenna di lì, perché le altre zone ce le ho tutte quante belle aperte. Ok, e vediamo se qualcuno nel frattempo vuole rientrare, tanto un paio di minuti e stacco io, o mi hai fatto il messaggio tuo tu adesso, vediamo su 10 chi vuole entrare avanti. Un pochettino, perché mi sono avvicinato un po' di più, però già ci vedi che se guardi bene la freccia lo vedi davvero. Magari tu sei meno di 3 ce l'hai qua ancora. Ma vuoi che è 2, è sotto il 2, aspetta. Già l'ho visto, cara. Ecco, lo era, l'ho ripigliato meglio. L'ho ripigliato. No, così è quando faccio una terna attaccata, tanto guai, no, non esiste da me. Così è, lo sto modulando adesso. Non è che sto facendo... E così c'è il QRM. Quando ti arrivo, tu sei 9.25 adesso, con i picchi quasi a 9.30. Io quando ti arrivo... Scappami. Hai detto un attimo. Quasi 9.40, sì. Addirittura? Sì, cazzo. Ma giusto è quello Smith? Secondo me non è giusto. No, sono 9.40, è tanto, considerando che siamo un po' lontani. E caso che arrivi, mi chiedi che sono sotto vicino a te, Luca, e quella gente lì. Così su per giù. Antonio, Gianni il profeta ti fa dire 4 video lo Smith. Gianni il profeta qua è 9.60. Ma non lo supera 9.60? Sì, tocca quasi 9.60. No, perché siete così vicini a me, quando erano qua vicini, quando attaccavano qualcosa mi arrivava lo Smith e proprio fondo scala superava i 60. Gappa. Allora qua per essere pignori, se vuoi ti mando una foto, per essere pignori 9, sono 9.35 qualcosa arrivi qua tu. Col parlato, modulato, è fisso, la portata è muta, guarda un po'. 9.30, quasi 9.35 modulato. Quindi, non pensavo, io pensavo arrivassi sui 9.30, 9.25 dalle parti tue. Così sì. A Carino arriverà a 9.45, da tu da lì. Quasi 9.50. E gli altri, quelli che sono più o meno come distanza, tipo doppio room, quando ti arriva? Allora, qua è 9.40. Luca dal Monte, 9.20 da Latte Dolce, Gianni va su per giù, dipende cosa attacca, il 9.30, così, su per giù e va quasi lo stesso segnale d'olio. Vabbè, poi c'è binario, quello ti arriverà a bomba, lo stesso. Che è binario? Franco. Franco arrivi in voce, no? Che? 9.40 è. Franco c'ha un bel segnale, lo sento forte anche qua da queste zone qui, non so poi cosa c'abbia, non mi interessa, però arriva un bel forte. E anche tu hai uno dei segnali più forti che arriva Luca adesso qua. Vabbè, Luca è sempre arrivato forte qua, dalle parti mie è sempre fortissimo. Ma dipende io cosa. Io sono 9.30, diciamo che sono da parte tua sul normale, no? Anche posso arrivare anche un po' di meno. Ma quando attacco non è più 9.30, no? Sì, no, già spingi un bel... E non c'hai antenna per dire, se ti muovi una manta come anche qui, ti faccio il mondo. Io dico che c'è questo di fatto, da voi. No, non sto dicendo quello assolutamente, anzi, stai andando alla grande, molto più di qualunque previsione, però considerando che non c'hai una 5 ottavi grande per dire un'antenna grossa, stai andando oltre ogni previsione. Figurati se ti metti un'antenna, se metti del palo, una manta, va a vedere se faccio gli uccellini. Lo so già. Ma io dico una cosa, se chi c'è di la bonga carbonate e ho parato un di raggraudio, sono dolori. Non ho, sì, magari che cosa avviserà con la manta va, ma non avrò niente anche vi. intermediare, non ti preoccupare. La volta faccia di buono a lunga distanza spara un bel. Quella magari in città non te ne accorgi la differenza, sarà più o meno della Mantova, ma se devi andare in profondità lontano, la Mantova c'ha quello di buono. Molto molto la ricezione e trasmissione in lontananza. Fare il capo, ma non ti ha dato una cosa, che i segnali meno forti io li sento molto meglio. Sì, no, ma tu se c'è quel REM è così basso, i segnali bassi riesci a tirarli fuori, però c'è da dire qua, tu vari un segnale che tu prendi 7, io l'ascolto 9, e per cui è quello lì il problema. Io vari, c'ho quel REM alto, però sale anche, i segnali salgono un pochettino, ecco, però se sono segnali sotto il 7 io non li tiro fuori. No, non ho problemi. Però tu adesso ho fatto tardi, devo fare altre cose, ci sentiamo magari domani, se coincide ti saluto, saluto anche a Luca, eventuali qua amici su canale 10, poi se Natalino è rientrato, non lo so, vi saluto a tutti, cuoretti da parte mia, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo. L'unico vantaggio che ho con le cornacchie, non si fanno, gli uccelli non si fanno i loro divertimenti. Ok, ciao ciao, buonanotte. Ciao Roberto, alla prossima, ciao. Ehi, io mi ho finito tanto adesso, andiamo a lavarmi le mani, ho visto questa ricciola. Ciao bagaffa, prova a dire mamma che mi sarà un grasso, mi sarà. Ok, buonanotte a tutti, ciao ciao, io mi addormento, ciao ciao, buonanotte. Ciao tu, a domani, ciao. Ciao ciao, mi riposo un po', Capra, ciao.